24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. È finita così, cioè non è finita. La vicenda Priebke per me è una cosa incredibile. Io ieri ho twittato codesto tweet: della vicenda Priebke dei funerali non me ne frega nulla. Eppure oggi il Corriere della Sera dedica 3 pagine a questa vicenda che ieri è stata, insomma, è diventata, avete visto, no? I tentativi di funerali, poi ci sono stati i funerali ad Albano Laziale, la gente che prende a calci e sputi la macchina con il feretro che arriva, qualcuno aggredisce spintona al prete che in realtà è un prete lefevriano, la chiesa oggi fa sapere i lefevriani sono fuori dalla chiesa, insomma un gran casino. Adesso è uscito un flash, la salma di Priebke all'aeroporto di Pratica di Mare, ma io non... Vabbè, io... insomma, in Italia riusciamo... Per carità... non lo so. Apriamo il Parlamento, dai. Che dobbiamo fare? Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. Paola Saluzzi, ciao! Come stai? Paola, dove sei? Pronto? Niente. Oggi mi avete abbandonato tutti. Niente da piangere. Paola. Allora, la situazione è questa: Luca Dini, il direttore di Ventifera, arriva tra 2-3 minuti. Sta facendo il controllo bagagli all'aeroporto. E Paola Saluzzi invece arriva adesso. Paola, dove sei? Paola, aiuto! Ma ci sono sempre io. Ma allora, guarda, funziona così: quando ti chiamo, tu devi parlare. È abbastanza buongiorno. Semplice. È abbastanza buongiorno semplice. A tutti, buongiorno, buona giornata, buon mercoledì. Ecco qua. Siamo in mezzo alla settimana, come il prezzemolo, ci siamo sempre. Siamo in mezzo alla 24esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Certo. E per le province a che punto siamo? Sempre alla 24esima, la legislatura è sempre quella. Allora, tra poco arriva anche il direttore di Vanity Fair, sta facendo il controllo bagagli all'aeroporto. E poi dopo. Beato lui che sta partendo. Ho sentito, perché io vi sentivo come tutte le mattine. Sai l'unica cosa saggia di questa situazione illogica? Non lo vuole nessuno. Non lo vuole nessuno. Questa è l'unica cosa sulla quale meditare, nel senso che, e chiudo, se no scatta fuori la mia anima sanguinaria e questo non va bene. Non solo per quello che lui ha fatto dei suoi primi 40 anni, definiamoli così, dove tu mi puoi dire c'è stata la guerra. Sono l'ultimo. 60 anni di tempo, 60 anni è la vita di un uomo, 60 anni di tempo per capire che cosa avesse fatto e come te ne esce fuori col tuo testamento finale. E allora sta bene che ti portino a Pratica di Mare, a Vaio Basilicata, a Pizzo Calabro, a non so dove, perché non te vuole nessuno, io penso non lo giustifico. Non ti vogliono da lì o figurati da morto. Non lo giustifico neppure nei suoi primi 40 anni. Ma la questione è che, per carità, cioè, non me ne frega niente, nel senso non è che non me ne freghi niente. Io quando dico così è una provocazione. Trovo incredibile, cioè, di Priebke, che appunto non si sono mai fatte grandissime paginate inchieste di quando era vivo. Il vero scandalo era appunto quando da vivo negava l'olocausto, adesso che è morto, cioè, facciamo di tutto per seppellirlo da qualche parte, basta, e chiudiamo almeno, non dal punto di vista del dimenticare, mai. Chiudiamo questa cosa, insomma. Mi permetto di ricordare che oggi al ghetto di Roma si ricordano i 70 anni del rastrellamento, certo, 16 ottobre 1946, certo. Quindi, come dire, morto in tempo, scusami, certo. E ho finito con questa mia pagina di bontà e di carità. No, ma infatti per nota carità cristiana. Bene, mercoledì di cosa parliamo? Ho tantissimi argomenti che ti voglio sottoporre qui dai giornali. Il primo è questo: visto che allora tu sei una donna, visto che oggi Michelle Hunziker fa un'intervista al Corriere della Sera, voglio partire da qui. Michelle Hunziker dice, sai che ci sono le polemiche perché è tornata a lavorare 4 giorni dopo il parto, a parte che lei dice, ma Striscia la Notizia non è un lavoro, dai, se lavorassi 8 ore al giorno in un ufficio, certo non mi sarei mica presentata 4 giorni dopo il parto. E perché questo è lodevole da parte sua. Insomma, l'accusa è a dire, lancia un pessimo segnale, no, della donna che deve essere sempre performante, sempre subito pronta, sempre, che ne pensi tu? Cosa ne penso? Ma saranno giorni suoi e saranno fatti suoi, ma saranno panche sue e saranno figli suoi, figli suoi il fatto di poter tornare. Allora, innanzitutto trovo estremamente, io peraltro, essendo noi tifosi di Vanity Fair, ed essendo Michelle Hunziker, che era un personaggio, insomma, che troviamo molte volte su Vanity Fair, vediamo che la persona dice pane pane fino al vino, primo. Secondo, trovo come tale molto giusto che abbia detto, non certo che non sia un lavoro Striscia la Notizia, non sia un lavoro lavorare in televisione e fare, voglio dire, voi state lavorando in radio, presumo svegli dalle 4 di questa mattina. Beh, dai, dalle 5, sì, buona. Dalle 5, bene, ci ho detto, se fossi dovuta andare in fabbrica, forse ho in fabbrica. È chiaro, è chiaro. Ma dopodiché, ma lasciatela in pace, ma se 4 giorni dopo non ha la pancia, è bella, è in gamba, è forte. Ho capito, ma certo, ma basta, tutto il dibattito, ma insomma, sì, le donne che devono essere sempre... basta. Ma chiudiamolo pure il dibattito talvolta. Chiudiamolo pure, va bene. È archiviata anche Michelle Hunziker, va bene. Sì. Allora ti voglio sottoporre questa. È stato indagato un genitore a Treviso, perché il figlio di 14 anni lo obbliga a... Cioè no, scusa, ho sbagliato la sintassi oggi. È il genitore che obbliga il figlio di 14 anni a essere assiduo negli allenamenti, perché pare sia un campioncino di nuoto, a stare 13 ore in piscina, a seguire la dieta, vitamine, insomma, probabilmente non avere neanche una vita da 14enne. Oh, indagato per maltrattamenti, devi essere un campione. Addirittura, cioè, qua si parla di doping su Repubblica. Beh, se fosse doping è chiaramente una grave cosa, ma se fosse doping bisognerebbe prendere i genitori a testa in giù. Vessazioni fisiche e morali, questa è l'accusa della procura. Anche i genitori performanti, che devi fare? Cioè, vuoi... Ci sono i genitori performanti. Ci sono sempre stati. Se il genitore, come la, cioè, a Roma abbiamo il mito della mamma dei Totti. Ho detto de e non di. La mamma dei Totti, signora, Dio la benedica, che, voglio dire, ha colto nel proprio figliolo la capacità, la qualità, e l'ha accompagnato agli allenamenti, e insomma, e faceva avanti e indietro con questo ragazzino, ha fatto bene. Poi ci sono i genitori, parlo di un grande appassionato di calcio, nonché dalle cronache, uno splendido papà come Alino Milan. Andate a vedere una partita di calcetto. Io che sono zia, quando i miei nipoti erano in età piccina da partita di calcetto, ebbi una sola cosa da dire a mia sorella, ritira dalla scuola di calcetto, perché non erano tanti ragazzini in campo, ma erano questi Doberman, oltre la rete, cioè i genitori, che incitavano il figlio a colpirsi, pigliagli la palla, vabbè, ma quello terra. Quello è giusto, poi ci sono quelli che esagerano, però ci sono quelli proprio che li mettono lì, in questo caso 13 ore in piscina, con calma, se il ragazzino piace, insomma, se ne ha voglia, se si sente con le branchie, si sente pesciolino, dopodiché il suggerimento è mettere in piscina anche il papà, E così abbiamo sistemato anche questo. Intanto Paola, voglio salutare, eccolo qui, voglio salutare Luca Dini, buongiorno. È finito il controllo bagagli, ci siamo messi a dire che sei... Sì, guarda, è il mio momento di panico ogni volta. Perché? So cosa trasporto? Sono il più lento. Io sono il più lento di tutti, cinture, telefonie. No, pensavo perché trasporto bombe in genere, no, nel mio momento di panico. Sì, no, in genere, a volte sì. Allora Luca, qua siamo partiti per la verità per derubricare, Paola è riuscita a trattenere il suo fare sanguigno, la vicenda Prib, che per me è abbastanza incredibile, lo dico da 2 giorni, che un paese si stia spaccando. Oggi il Corriere della Sera dedica 3 pagine su questo. Io pensavo ieri fosse in qualche modo finita la vicenda, poi ieri sera invece riesplosa. Ma la tua idea, non stiamo esagerando nei confronti di una persona spregevole? Che... Sì. È una cosa cattiva. Io non penso che sia... Io di Pricpe penso tutto, di Pricpe penso tutto il male possibile e immaginabile, ovviamente. E molto francamente non posso dire di essere dispiaciuto di questa dipartita, cioè sarei ipocrita, però penso che Pripke serva agli italiani per dimenticare che noi abbiamo aiutato quelli come Pripke, che non eravamo innocenti, che non, non è vero che eravamo bravi, che siamo stati tutti degli specie di Schindler, e in un certo senso i fantasmi come Pripke ci servono a dimenticare questa cosa qui. Cioè ci laviamo anche via un po' le nostre colpe, nostre nel senso non personali, ma colpe. Ma di chiunque, e non solo governative, anche collettive, perché ricordiamo che nei raffreddamenti di Roma c'era chi in cambio dei soldi che prendeva ha abitato i propri vicini di casa, quindi è successo questo in Italia. Certo, certo. Non dimentichiamo. Mi piace dirlo solo dei tedeschi, ma non è successo. No, domani. Ma è chiaro, è proprio oggi, 70 anni fa, ricorre come si ricordava, ricordava prima questo. Oggi. 24 mattino. Milan, ma com'è che sono sempre quelli di sinistra che vogliono far uscire di galera i delinquenti? E Prodi fece uscire l'assassino di Calabresi, ora Napolitano per cercare di salvare il culo a Berlusconi, l'hanno capito tutti. Amnistia e indulto per il sovraffollamento delle carceri, il sovraffollamento delle carceri c'è solo quando gli conviene a loro. E ora dobbiamo far uscire un pochettino di gente di galera per salvare il culo a Berlusconi. Vabbè, italiani siamo, ciao Milan. Anziché aiutare gli italiani che stanno affogando, noi mandiamo le navi, a spese nostre, a salvare gli immigrati clandestini. Complimenti politici di merda. Sono gli italiani che stanno affogando, sono gli italiani. Forse non l'avete ancora capito. Alessandro, perché ancora Alitalia sopra le nostre spalle? Perché dobbiamo sobbarcarci per l'ennesima volta questa tassa? Cosa abbiamo fatto di male? Non basta farla fallire una volta, facciamola fallire, regaliamola, vendiamola, non lo so. Basta che non la dobbiamo ripagare, adesso Poste Italiane, via coi nostri soldi, ancora. E basta, no, ma ci vogliono proprio, ci vuole il furcone, cosa dobbiamo fare? Io sono esterrefatto. È incredibile, ma quando cade sto governo schifoso? Ancora tasse, ma l'hanno capito che ci stanno tirando il collo. Oramai è il cittadino contro lo Stato, è incredibile, ancora tasse, noi che famo. E allora siamo qui con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, con Paola Saluzzi, Sky TG24 pomeriggio dalle 15, vi ricordo, e con la nostra segreteria molto arrabbiati, e vabbè, insomma. Allora, l'avete visto per caso Croz? Oh, ieri ho visto Croz, era isterico. Paola, tu l'hai visto, Luca, l'avete... No, purtroppo l'ho mancato ieri sera. Ha fatto l'inizio, ha imitato Brunetta, ma era isterico, secondo me, per questa cosa che gli è saltato il contratto in Rai, sentite... Buonasera. Quanto costa Ballarò? Quanto costa Ballarò? Ma anche qui. Quanto costa Ballarò? Quanto costa Floris? Quanto costa Pagnoncelli? Quanto costa Pagnoncelli? Ma non è importante. Quanto costa Pagnoncelli? Quanto costa quel Ballarò? Ma perché? Quanto costa questo cavo? Quanto costa questo cavo? Quanto costa Pagnoncelli? Quanto costa questo cavo? Quanto costa la sigla che fa il fisarmonicista? Barra biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri. Quanto costano? Quanto costano gli acquarelli? E vabbè, è andata avanti così, poi a un certo punto ha detto io ho rinunciato, ha fatto una metafora, il salumiere che compra il maiale per rivendere i salami per guadagnarci, insomma era arrabbiato. Però Paola, quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Potrebbe essere un tormentone. Potrebbe essere un tormentone. Noi tra l'altro ne parliamo alle 8:15, abbiamo anche il presidente della commissione vigilanza Rai, Grillino Fico. No, però Paola, che ne pensi di questo dibattito sui compensi? Che lo commentavo ieri sera con una persona bella e saggia, da una parte la risposta io faccio guadagnare la mia azienda altrettanto in pubblicità, la risposta che ha dato Fazio, sì, insomma, in questo battibecco che era anche presumibile, insomma, dove devo dire sono stati molto bravi tutti e due, ecco, ognuno ha difeso la propria tesi con forza. È giusto, pensiamo a quando si dice dei calciatori, dice, ma perché devono guadagnare così? È perché rendono altrettanto. Ma quella è una cosa dall'altra, pubblica, eh. Dall'altra, sì, certo, quella è una cosa privata, ci sono sponsor, eccetera. Dall'altra, di questi tempi purtroppo si parla anche di soldi da questo punto di vista. Non è bello, non è piacevole, però si deve fare. Ma è chiaro, tanto pare che il giornale ha fatto sapere che ora salta anche lo show di Benigni per i conti Rai. Tu, Luca, direttore, quanto guadagni? Quanto guadagni? Guarda, posso, siccome ho il boarding, posso dire due cose, fare due domande cattive. Sì. Una, la prima è quanto ci è costato Brunetta, e la seconda è... Posso rispondere a quell'ascoltatore che ha detto che gli italiani che i politici che mandano barche a prendere stranieri che affogano sono politici di merda. Ecco, penso che gli italiani che dicono queste cose, purtroppo, mi dispiace dirlo, sono italiani di merda. Così. Ma devo dire che sono stamattina direttore Dini è particolarmente tanto Paola, adesso lui prende un aereo, chi se ne frega, adesso chiamano da noi in segreteria, bravo, no? Bravo, direttore, va all'estero, bravo. Scappa, fugge, no? Noi sono ancora, numerone con i 10 anni di Vanity Fair, Cos'è il numero? Cosa devi fare? Devi fare la pubblicità? Cos'è sta storia? 10 anni? Manco lo sapevo io, ma c'è Paola Saluzzi. È vero, stiamo preparando un numerone sui 10 anni. Vabbè, allora facciamo così, visto che io vi saluto, vi dico solo che la copertina di Vanity Fair, cioè, ma allora, Miley Cyrus, questa l'ho beccata anch'io, caro Luca, quella che ha avuto una picca subito, quella che ha avuto, come dire, una trasformazione, diciamo, di qui no? Era disneyana, è diventata un po'. Voi però ho pubblicato una foto, ma quando risale? Quanti anni ha qui? In questa 15 anni. È una foto in cui è mezza biotta, direbbero a Milano, cioè mezza nuda, in copertina. No, in realtà è una foto artistica, no, certo. Esatto. Sì, però insomma, tutta però la schiena nuda. Insomma. E voi dite, ma non è che si capiva già in realtà da qui che questa signora... È una figlia d'arte, ha seguito un percorso, non c'è da sorprendersi. Non poi c'è da condividere o no. Non c'era, capito Paola, cosa ridi? Non c'è da sorprendersi, è tutto. Mi viene in mente quello che direbbe un mio amico adorato di Sorrento, un poco zoccola. Un poco zoccola, e vabbè, insomma, così anche Miley Cyrus, se vuole chiamarci in segreteria, Miley Cyrus, e dirci cosa pensa di noi e di Paola Saluzzi e Luca Dini, molto volentieri. Grazie, buon viaggio, caro direttore di Vanity Fair, grazie a Paola Saluzzi, che oggi ritroverete alle 3 su Sky TG24 pomeriggio. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Quando sono le 7:19 minuti in questo istante preciso, almeno qui nell'orologio di Radio 24, magari siete avanti e indietro, a chi se ne frega, va bene, comunque questo è l'orario 7:19 ufficiale dai microfoni di Radio 24, buongiorno e ben ritrovati, eccoci qua a parlare di quello che raccontano i giornali al momento della rassegna stampa. Prima vi ricordo che parleremo di questa disputa sui compensi in Rai, ma non solo. Se volete, cari italiani, vi interessa sapere quanto guadagna Fabio Fazio, quanto guadagna chi lavora nella TV pubblica? Deve essere, siccome è pubblica la TV, tutto noto, e poi misurate col guadagno o misurate con gli introiti che magari fa guadagnare una trasmissione? Cioè, che ne pensate di questo dibattito? Avremo ospite alle 8:15 il presidente della commissione vigilanza Rai, Roberto Fico, onorevole del Movimento 5 Stelle, e poi altri ospiti

è che noi vogliamo che tutti questi gli stipendi, ma anche gli stipendi poi interni alla RAI dei dirigenti, siano totalmente trasparenti e pubblici, perché dobbiamo partire sempre da un assunto che è fondamentale. La RAI è un'azienda pubblica al 100% ed è finanziata per 1.750.000.000 di euro dal canone che pagano e versano i cittadini. E quindi se uno vuole essere un'azienda privata, allora non raccoglie il canone. Se uno vuole essere un'azienda pubblica, allora raccoglie il canone e rende tutti i dati disponibili tutto alla pubblico. Cittadinanza. Quindi lei vorrebbe che, certo, lei vorrebbe che lo stipendio di Fazio, come di tutti, anche dei dirigenti, come di tutti, venisse, certo, venisse reso noto pubblicamente. Senta, però come sa, la RAI sta sul mercato, non sono dati sensibili per un'azienda che, se è vero, è pubblica, ma ha una concorrenza, sta sul mercato e quindi divulgherebbe un dato certamente sensibile. Io dico una cosa su questo, io credo che la RAI sì, è sul mercato, ma appunto proprio perché quale azienda ha ogni anno 1.750.000.000 di euro di incasso che lo può già prevedere e non deve neanche rispondere a degli azionisti che vogliono davvero profitto e quindi intascare soldi, ma risponde ai cittadini che vogliono un servizio pubblico di alta qualità e i conti in ordine, fondamentalmente. Niente più di questo. E quindi io penso che agisce anche la RAI in un regime di concorrenza molto particolare. Oltretutto, per me il vero regime di concorrenza, falsa concorrenza, è il modello di scelta di governance della RAI, che avviene attraverso il Parlamento, attraverso anche la Commissione di Vigilanza, dove poi i partiti inseriscono i loro uomini nel Consiglio di Amministrazione, sì, e magari ci sono anche uomini che fanno poi, hanno fatto riferimento a, per dire, all'altra azienda principale. Cioè lei mi, sì, in questo caso Mediaset, immagino intendesse quella. Esatto, cioè quindi ci vuole una riforma totale del modello di governance. Però lei mi sta dicendo, mi scusi, mi faccia capire, mi sta dicendo che in qualche modo quel 1.750.000.000 di euro dal canone è quasi una sorta di concorrenza sleale, perché pone la RAI su una situazione che altre aziende non hanno? No, le sto dicendo, in questo caso qua, le sto dicendo che se andiamo a sbandierare ogni volta che si chiede la trasparenza la concorrenza del mercato, allora io dico che noi come RAI raccogliamo 1.750.000.000 di euro di canone, non rispondiamo a degli azionisti che cercano profitto, ma rispondiamo solo ai cittadini che vogliono un servizio pubblico di alta qualità e che hanno deciso loro di finanziare la propria TV di Stato. Quindi senta, la riflessione è: se noi vogliamo la nostra TV di Stato, la vogliamo pagare noi e vogliamo anche i conti in ordine e vogliamo un'azienda che è una casa di vetro trasparente. Finanziata dai cittadini. Il compenso di Fazio sarebbe, secondo i giornali, 1.800.000 euro l'anno. Lei come lo giudica? Così la cifra, proprio brutalmente? Ma brutalmente è chiaro che per tutti i lavoratori normali, le persone normali, sono cifre da capogiro, sono cifre che non vedremo mai in una vita, quindi io credo che anche su questo si potrebbe dare un esempio molto forte. Ma voglio dire, l'idea, perché Fazio dice: ma io faccio guadagnare di più all'azienda, quindi è un investimento, uno investe tot, ma se io guadagno tot più 10, per esempio, è un investimento proficuo. Lì c'è un altro tipo di problematica, però, perché l'azienda dà in appalti esterni 1.600.000.000 di euro, quindi in appalti esterni, ed è tantissimo rispetto ai ricavi della RAI, quindi c'è una percentuale che va oltre il 60% in appalti esterni. E noi sappiamo che anche la trasmissione di Fazio è coprodotta con la Endemol, che è un'altra società esterna. Quindi e lei quindi dice andrebbe i profitti, rivisto tutto quanto il pacchetto. Perché dobbiamo dare format, dobbiamo comprare format esterni alla RAI e poi abbiamo 13.000 dipendenti tra tempo determinato e tempo indeterminato e non facciamo lavorare al massimo della produttività questi dipendenti? Quindi secondo lei cioè tutte le produzioni RAI dovrebbero essere interne, per esempio? Secondo me una grande parte delle produzioni RAI dovrebbero essere interne, ma se il bilancio del 2012 è stato chiuso in rosso con 250.000.000 di euro di perdita e quello del 2013 si avvia a perdere 500.000.000 di euro, È chiaro che se abbiamo 1,3 miliardi, 1,6 miliardi di appalti esterni, dobbiamo assolutamente ridurre questo numero per far sì che tutta la produttività dei lavoratori sia al massimo e gli appalti esterni siano al minimo, ma questo è proprio un dato chiarissimo. Senta, lei condivide, ha visto la polemica anche tra Beppe Grillo, qui forse le faccio più una domanda più che da presidente della Commissione di Vigilanza di esponente del Movimento 5 Stelle. Grillo ha detto verremo, quasi ha minacciato una sorta di Occupy Sanremo. Lei in caso di qualche manifestazione andrebbe a Sanremo a manifestare? No, io le dico che dal mio ruolo come presidente della Vigilanza RAI voglio che Sanremo sia totalmente trasparente, che la commissione si occupi della trasparenza di Sanremo al 100% come di tutte le altre trasmissioni. Io nell'ultima commissione di vigilanza ho proposto che a fine di ogni trasmissione ci sia un bilancio della stessa trasmissione chiaro, dove vengono spiegati tutti quanti i costi ai cittadini, e soprattutto vogliamo sapere, e lo sapremo secondo me mettendo nel nuovo contratto di servizio, quale trasmissione è finanziata dal canone, quale no e che parte e che percentuale. Si chiama contabilità separata. Ma come, è resa nota come? Non so, nella sigla, nei titoli di coda, tramite un bollino verde. Cioè, questa trasmissione è costata tot, per dirle. Certo, è una mia proposta, io vorrei così, vorrei un bilancio chiaro delle trasmissioni, di tutte le trasmissioni. Diciamo, cioè nei titoli, perché uno in un titolo di coda dura un minuto, non so, questa trasmissione è costata 50.000 euro, poniamo, lei metterebbe questo nel titolo di coda. Quindi un piccolo bilancio o anche poi un richiamo sempre a un sito internet della RAI dove andare a vedere il costo preciso di quella trasmissione. Ah, perfetto, pubblicati in maniera. Senta, quindi vabbè, ma Sanremo non mi ha detto un po' qua è stato, capisco il suo ruolo. Non andrebbe a manifestare. No, però le dico che la cosa principale su questo è sempre il fatto che dalla commissione di vigilanza RAI noi vogliamo che tutto sia trasparente al massimo. Andrei a manifestare, sono andato a mille manifestazioni e continuerei ad andare alle manifestazioni che organizziamo, che organizza il mio gruppo parlamentare insieme. Quindi andrebbe. Senta, Crozza invece è saltato. So che l'onorevole Brunetta ha fatto anche una interrogazione, proprio interrogando lei come presidente di commissione di vigilanza, per sapere i chiarimenti sul presunto contratto che peraltro è saltato. Ma lei può accedere a questi dati? Cioè, poi un altro conto è se lei li vuole rendere noti, ma lei lì come ruolo può sapere dalla RAI questi dati o no dei contratti? No, come ruolo e come commissione non li possiamo sapere. In che senso? Noi li chiediamo tutti i dati, tutto quello che secondo noi è di interesse pubblico, e cerchiamo di farli trasmettere in commissione per protocollarli, e così che in modo da che diventino atti pubblici, perché non devono essere mai dette le cose magari sul giornale, sui giornali o in televisione o nelle varie passaggi di passaparola. Noi dobbiamo avere tutti gli atti ufficiali in commissione in modo che diventano di rilevanza e interesse pubblico in modo trasparente. E quindi non glieli danno, sì. Quindi se lei chiede quanto... No, infatti le faccio un esempio. Sotto la mia guida la commissione ha avuto per la prima volta nella storia della vigilanza gli operatori economici iscritti all'albo fornitore al 4 luglio 2013. Ci sono tutte le aziende, ne sono 1170, che possono partecipare agli appalti RAI. Ora, questo è un dato di tutte queste società che noi non avevamo mai avuto nella storia della vigilanza RAI, non erano mai stati forniti dalla RAI, dalla sua nascita. Cioè gli appalti esterni. A quanto ammonta società, questa cifra? La cifra degli appalti esterni ammonta circa 1,6 miliardi di euro. Però il punto è che noi ad oggi non sappiamo ancora, e l'abbiamo chiesto più volte al Consiglio di Amministrazione e continueremo a farlo, quali di queste società in questo momento stanno lavorando, perché conosciamo solo le società che hanno superato l'istruttoria per accedere all'albo fornitori, e sono 1170 società e abbiamo tutti i nomi, però vogliamo sapere in questo momento quale società stanno lavorando veramente per la RAI e perché cifra. E però non ve lo dicono. Questo ancora non lo dico. Allora, mi sembra normale che la commissione di vigilanza RAI chieda una cosa del genere alla RAI, che pubblica, e quindi la commissione di vigilanza RAI è il Parlamento, ovvero il popolo italiano. Però questo certo. Però mi perdoni, Presidente Fico, Crozza è saltato. Cioè lei è soddisfatto proprio da cittadino, anche da spettatore. Oggi il giornale scrive che anche Benigni lo show è saltato, o pare stia saltando. Cioè Crozza è saltato e Benigni rischia di saltare. Non è un impoverimento della RAI? Ma l'impoverimento vero sono i 500 milioni di euro di deficit che la RAI andrà, con cui la RAI andrà a chiudere il bilancio del 2013. Questo senza dubbio. Allora noi dobbiamo ripartire da lì, questi sono i soldi dei cittadini, quindi dobbiamo comprendere come fare a risanare la RAI, assolutamente, e questo lo devono fare dal presidente Taranto, del consiglio di amministrazione, il direttore generale Gubitosi. Allora anche loro, se valutano a un certo punto che il contratto di Crozza è troppo oneroso, che mi sembra che andava intorno ai 30 milioni di euro, 25-30 milioni di euro, o che le apparizioni di Benigni sono troppo costose, allora devono fare anche loro un giro, una spending review sugli stipendi, e comprendere che magari è il caso di attuare un altro tipo di politica, un altro tipo di servizio pubblico. Oltretutto, un'ultima cosa che le volevo dire è che io penso che c'è anche un valore aggiunto, deve essere lavorare in RAI, avere un contratto con la RAI come azienda pubblica e la principale azienda culturale del paese. Allora anche personalmente deve essere un investimento andare a lavorare in RAI per poi lanciarsi sul mercato nazionale e magari internazionale. L'ultima domanda a Fico è questa, poi mi perdoni, devo andare in pubblicità. Lei ha obbligato anche lei come commissione di vigilanza il direttore generale Gubitosi a esporre addirittura il piano industriale in diretta, tranne i dati sensibili ovviamente. Cioè, parlavoci francamente, la vedono un po' come un rompicoglioni lei adesso che è presidente della commissione. Sì, io le dico che mai erano stati ottenuti alcuni risultati, tra cui l'esposizione in diretta streaming del piano industriale della RAI, l'assetto organizzativo col personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, l'albo fornitori, e quando parliamo poi di stipendi, perché da quanti anni si parla di stipendi? Da tantissimi anni. Infatti. Per la prima volta nella storia della vigilanza e della RAI, gli stipendi sono usciti fuori, tutti gli stipendi a fasce dei dirigenti amministrativi e dei dirigenti giornalisti, che saranno messi sul sito dopo l'approvazione del contratto di servizio nuovo. Quando verranno messi? Quando sul sito? Nel momento, 30 giorni dopo l'applicazione del nuovo contratto. 30 giorni dopo l'applicazione del nuovo contratto di servizio, che stiamo in questo momento esaminando in vigilanza, e che è la grande potrebbe essere entro la fine dell'anno. Quindi un po' rompi maroni, ecco, diciamo così la vedono. Vabbè, intanto è un lavoro fatto per i cittadini, in nome dei cittadini e per la trasparenza massima. Che anche altre persone, cioè fare il rompicoglioni è un lavoro fare il rompicoglioni. No, la ringrazio, perdoni la battuta. Grazie a Roberto Fico, presidente della commissione vigilanza RAI del Movimento 5 Stelle. Dopo la pubblicità rientriamo e approfondiamo ancora questo con altri ospiti e anche sul tema, ma insomma la RAI è appunto un'azienda pubblica, certo, ma dare dati sensibili per un'azienda non è un qualcosa che sul mercato poi va a inficiare la stessa azienda. Vedremo anche di capire come va all'estero, per esempio in Germania, tra poco. 24 mattino. Allora, alle 8:39 minuti, dopo aver ascoltato il presidente della commissione vigilanza RAI, Roberto Fico, io voglio salutare, torniamo e continuiamo su questo tema, e cioè è giusto che una TV pubblica, in quanto pubblica, renda tutto trasparente, come chiede il presidente Fico, oppure stando sul mercato un'azienda non è che può rivelare tutti i dati sensibili del caso, perché questo rischia di diventare un impoverimento sul mercato. Ne parleremo con il professor Claudio Borghi, che saluto, anche editorialista del giornale. Buongiorno professor Borghi, eccoci. Buongiorno. E voglio salutare dalla Germania, è un ritorno gradito, può stare con noi pochi minuti, ma il suo parere mi interessa molto. Si tratta di Ingo Zamperoni, giornalista tedesco dell'ARD, primo canale televisivo tedesco. Buongiorno Zamperoni e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, mi interessa sapere, caro Ingo, che succede in Germania. Lavorare in una TV pubblica vuol dire dover rendere tutto trasparente e tutto visibile a tutti? No, proprio no. C'è un movimento di aprire più anche al pubblico un paio di numeri, in certo senso quello che guadagnano i redattori si può vedere in una tabella, però tutto quello che anche i direttori delle reti hanno, però l'hanno fatto per conto loro, cioè non è che lo devono fare, hanno offerto il loro guadagno, però cioè, se i presentatori dei show o anche sportivi, tutte quelle cose lì, non sono ancora pubbliche. No. Quelle però magari sono, come dire, delle star, così si suol dire, esterne, mentre invece chi è dipendente deve rendere noto tutto, oppure no, insomma il dibattito è un po' come in Italia, ma trova giusto che un'azienda pubblica possa nascondere qualcosa e in nome di che cosa? Ma in un certo senso le aziende pubbliche hanno un contratto con il pubblico, così funziona almeno qua in Germania, e allora sarebbe giusto in un certo senso anche che il pubblico avrebbe un diritto di sapere. D'altronde non è che è un segreto, se uno lo vuole sapere si potrebbe anche sapere certe cose, però quando si parla di soldi tutti sono un po' la tengono all'oscuro anche. No, ma certamente. Claudio Borghi, qui c'è un aspetto, diciamo, ci sono degli interessi da parte di tutti, da parte del pubblico, di sapere. Paghiamo col canone 1.750.000.000 l'anno, ci ha fatto sapere il presidente Fico, alla RAI, e quindi se uno si vuole avere diritto ad avere questo, allora deve anche rendere tutta una casa di vetro trasparente. Questo però appunto va a cozzare un po' col mercato. È un dibattito abbastanza interessante. Lei, anche da economista, come la vede? Ma innanzitutto non è che ci sono delle grandi anomalie fra la RAI e altre televisioni statali in giro per il mondo. Forse l'anomalia è che la RAI perde di più, insomma, di solito, il modello per esempio dovrebbe essere la BBC, che fa utili, ha un canone anche lei, e capita che paghi dei conduttori anche un milione o di più, insomma. Faceva scandalo, per esempio, se non mi ricordo male, perché era un caso di studio, Jeremy Clarkson, un soggetto che conduce una trasmissione di automobili che ogni tanto si vede anche in Italia, gli inglesi sono molto appassionati, fa un incredibile numero di profitti documentati, perché poi potremmo discutere su quanto è vero che uno recupera questi soldi o meno. Io in azienda ho visto che è molto facile intestarsi solo i profitti e mai i costi, mai le perdite, cose di questo tipo, e quindi sarebbe tutto normale, insomma, da parte di un'azienda statale. I costi e gli stipendi sono o pubblici in maniera molto palese, oppure in ogni caso conoscibili, perché ovviamente non possono essere segreti per l'azionista, no? Che mette i suoi uomini nel consiglio d'amministrazione. Per cui, è un dibattito sinceramente che non è che mi scalda più di tanto. È evidente che purtroppo è sempre così. Quando c'è un'azienda pubblica che compete con il privato, è lì il problema. Dall'altra parte il problema si pone, perché purtroppo in Italia si tende, ovviamente si è teso a parlarne poco, perché il privato era sappiamo chi. Il problema c'è, perché se il pubblico deve rendere tutto trasparente, però è in competizione, come scrive oggi Aldo Grasso sul Corriere della Sera, in fondo poi la TV di Stato non è più una TV di Stato, ma se non per il fatto che prende il canone, ma perché ormai si comporta come una TV in regime di concorrenza con le altre TV, e allora far sapere tutti i costi eccetera è chiaro che è un beneficio per chi sta dall'altra parte. Se poi chi sta dall'altra parte è addirittura, sappiamo, Silvio Berlusconi, ma non vogliamo aprire questo capitolo. Però nel voler ringraziare e salutare Zamperoni, anche in Germania c'è un canone, Zamperoni? Sì, il dibattito è anche lo stesso, la concorrenza televisione privata contro la pubblica, e i privati dicono sempre: ma voi siete avete tutto questi soldi, sono 17 euro per casa, per famiglia, che al mese. 17 allora, al mese, più o meno, sì, allora, quasi meno. Più che da noi, insomma. Va bene, chiaro che in Germania si guadagna anche di più, quindi è più, cos'è, 170 euro l'anno di più, quasi 200. Circa, facciamo i calcoli, 17 euro per 12. Di più, 200 euro, diciamo. Sì, al mese. E con questo viene finanziato più che 60 reti di radio, circa 9 reti televisive, poi anche 2-3 altre cooperazioni con la Francia, anche, cioè Noi diciamo, adesso lavorando per la rete pubblica, dico vale la pena perché offriamo un sacco di cose, però chiaramente è sempre lì il dibattito quanto possiamo offrire anche noi pubblicità o no, perché dopo le 8 nella nostra televisione è proibito, non c'è più pubblicità. Dopo le 8 nella TV pubblica, della sera. Questa cosa, Zamperoni ogni volta mi dice una cosa che... No, l'altra volta ci ha detto che il telegiornale di maggiore ascolto dura, diciamo, un quarto d'ora, non di più. Poi ce ne sono altri, ma qua ce ne sono 5.000 rispetto. E dopo le 8 la TV pubblica tedesca non trasmette un secondo di pubblicità, proibito. Esatto. L'unica cosa che potrebbe esserci, per esempio per le partite di calcio, c'è una ditta che può presentare, però solo all'inizio e alla fine, non è nel secondo tempo, cioè non è che puoi interrompere un film per avere pubblicità. No, tutto straordinario. L'ultima cosa, allora, c'è qualche star che magari, ecco, perché qui si dice Fabio Fazio, cioè, o chi conduce Sanremo, i grandi Crozza, ci sono anche lì le star che arrivano a fare dei grandi show e che suscitano scandalo per gli stipendi? Ma scandalo, sì, non è che questo dibattito è primo luogo al momento in Germania, no, però ritorna sempre. E, diciamo per esempio Günther Jauch, che conduce una trasmissione domenica sera, la più ascoltata politica, che chiaramente lavorava per i privati prima, e quando l'hanno preso la ARD, la mia rete, c'era una grande domanda, ma per quanti milioni lo prendete? Perché deve essere lui, chiaramente sì. C'è anche un po' l'invidia. Grazie Ingo Zamperoni, grazie davvero, ci sentiamo presto della ARD, TV pubblica tedesca, il traffico, e poi rimaniamo col professor Borghi, gli ascoltatori, per approfondire questo tema. Le 8:49 minuti, allora, professor Borghi, sarà, no, non la appassiona questo dibattito, l'abbiamo tirata in me, dica la verità, dai, si sfoghi. Sì, guardi, no, ma mi sfogo proprio volentieri, perché no, al di là delle paghe, così questo tipo, io pagherei come sempre, ma anche con i politici, mi pagherebbero anche di più se facessero bene il proprio mestiere. Certo. Dal punto di vista... Però invece... qua ci sono due temi, mi scusi, dire 1.800.000 a Fabio Fazio, per esempio, oggi si scopre 1.600.000 a Carlo Conti, 1.800.000 Antonella Clerici, cioè lì bisogna fare solo un discorso sì, ma quanto rientra, cioè come investimento, punto, non si può neanche avere un briciolo di brivido per lo stipendio? No, ma sì, si può sicuramente, anche perché sono abbastanza convinto che se si andasse a fare una revisione seria dell'utilità marginale del conduttore, si verrebbero fuori delle sorprese. Per utilità marginale del conduttore significa cosa succede se quella trasmissione lì io la faccio condurre a un altro che costa molto poco. Beh, ma però lui, no? Magari Fazio dice, vabbè, ma io per 10 anni ho, come dire, tirato il carretto e ho portato io tutta questa visibilità al programma, adesso magari arriva un altro e gode dei miei benefici. Sì, dicono così, però se poi dall'altra parte magari si mette un programma in la stessa fascia oraria di approfondimento che fa gli stessi ascolti, poi dopo uno ci pensa su, insomma, perché la differenza non è il ricavo in assoluto, è quanto in più riesco io a far ricavare rispetto a un altro che costa la metà di me. Poi c'è anche quindi... un altro tema che effettivamente il Presidente Commissione di Vigilanza ha dato, e cioè che la produzione è una coproduzione esterna di molti programmi, per cui quando uno dice do benefici di ritorno, sì, ma a chi vanno questi benefici? Immagino marginalmente o proporzionalmente anche alla casa produttrice, che in questo caso non è la RAI. Mi faccio sentire due ascoltatori, poi ritorno. Davide dalla provincia di Milano. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno. Che pensa? Io penso che dopo aver sentito Fico mi sono alzati i capelli in testa. Perché? Perché investire su fatti è come per un'azienda investire su un macchinario. E sono d'accordo che va fatto un'analisi di ritorni sulla marginalità che è in grado di portare, ma alla fine mettere un conduttore a 100.000 euro all'anno, che però non funziona, è come distruggere il patrimonio di una società. Il problema non è quanto guadagna, ma quanto questo conduttore fa rientrare i propri azionisti. L'investimento. Il problema è che poi si debba dare il lavoro esterno a Endemol, perché probabilmente tra le migliaia di persone che ci sono in Rai messe lì non si sa bene come, forse non ci sono le persone qualificate per fare quel tipo di lavoro, allora si deve andare sull'esterno, ma allora forse bisogna andare a tagliare le centinaia di persone messe lì per puri motivi elettorali e politici. Lì sono i problemi, non Fazio, la Littizzetto, piuttosto piuttosto che conti o quant'altro. Se questi certo. fanno ascolti, fanno contatti, è giusto che vengano pagati. Faccio solo un commento, poi chiudo. Io trovo francamente scandaloso che in questo momento il Movimento 5 Stelle sembra che stia portando avanti il messaggio che guadagnare dei soldi certo. sia un reato e la gente siano tutti dei farabutti. Ma guarda, in realtà, no, va bene, grazie Davide. In realtà l'ha tirata fuori anche l'onorevole Brunetta, è stato il primo a fare questa campagna e poi l'ha portata anche nel salotto buono di Fazio. Tino da Milano, buongiorno Tino. Sì, buongiorno a tutti. Che dice? Buongiorno a tutti. Allora, sono totalmente in contrasto con l'ascoltatore di prima, per cui dico io va bene lo stipendio, non voglio polemizzare sullo stipendio dei conduttori, sì, ma la considerazione in questo momento è che la RAI, da quando è nata, è comunque sempre un carrozzone, ma direttamente sempre in perdita. Mm. Abbiamo, nonostante tutti, un miliardo e otto di finanziamenti dal pubblico, tutti gli anni abbiamo perdite di 500, 600, 700 milioni, quelli che sono, e allora io dico a Fazio, quale guadagno lui porta alla RAI? Ma io non lo so Tino, allora lei pone due problematiche, una è Borghi, una è la perdita che anche Fico ci ha detto potrebbe arrivare a 500 milioni di euro di perdita della RAI quest'anno, adesso vedremo la chiusura del bilancio, però le stime sono, oggi il Corriere dice superiore ai 400 milioni, e poi Tino dice che vantaggio porta Fazio, ma questo vabbè, bisognerebbe vedere i conti davvero, e l'abbiamo già detto, però il tema delle perdite invece del bilancio complessivo, Borghi come si inserisce in questo discorso? Dovrebbe portare a dire bisogna tagliare i compensi comunque perché si è in perdita? Secondo me è abbastanza corretto, cioè vale a dire, una volta che si stabilisce un canone, in teoria poi non ci dovrebbe essere la perdita, cioè vale a dire, quello che uno paga, già che è in più rispetto a quello che incassa un'azienda privata, dovrebbe bastare poi dopo per la gestione dell'azienda. Se poi dopo anche lì si sfora, evidentemente si sta facendo una cosa non giusta dal punto di vista aziendale. Però mi lasci così sfogare, come diceva prima, sì, su una questione. Sui media e sulla RAI, soprattutto essendo servizio pubblico, secondo me c'è un problema più che di costi, di verità. Io mi domando, da esperto di cose economiche, ecco, ogni tanto sento delle cose che non stanno né in cielo né in terra, ma che non stanno né in cielo né in terra non dal punto di vista dell'opinione, non è il politico che dice taglieremo le tasse, scorrerà il miele o cose di questo tipo, sì, ma le infografiche o cose di questo tipo che presentano delle falsità. Questo secondo me non è per esempio, qualcosa di sbagliato. In che senso falsità? Per esempio, se io, non so, l'ultimo caso è stato Report, no? Che normalmente sono una trasmissione che è considerata come esempio di probità e cose di questo tipo, ecco, hanno fatto una trasmissione sull'euro e così via, no? Dove venivano presentati dei fatti e dei dati che erano chiaramente falsi. Allora, il problema è, secondo me, è uno, vale a dire, è possibile fino a che limite, sì, in un servizio pubblico dire falsità? Vabbè, però Borghi, qua io, a parte che la devo fermare, ma perché è finito il tempo, cioè se la prenda con Report che devo fare? Si è sfogato, ma si sfoga ancora. Scriva la Gabanelli, vedrai che le dà spazio per una replica. Vabbè, Crozza l'ha presa male, niente, su Crozza ieri a Ballarò che imitava Brunetta, vi diamo appuntamento a domattina 6:30. Buonasera. Quanto costa Ballarò? Ma anche qui. Quanto costa Ballarò? Quanto costa Floris? Quanto costa Pagnoncelli? Quanto costa Pagnoncelli? Ma non è quanto costa Pagnoncelli? Quanto costa quel Ballarò? Quanto costa questo cavo? Quanto costa questo cavo? Quanto costa Pagnoncelli? Quanto costa questo cavo? Quanto costa la sigla che fa il fisarmonicista? Barra biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri. Quanto costano? Quanto costano gli acquarelli? 24 mattino.